Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto anche da Gigi Donelli. Dunque, come avete sentito naturalmente in primo piano, sempre l'incidente drammatico in Puglia, il tema della sicurezza che riguarda le ferrovie italiane, ma che naturalmente è anche una chiave europea di un sistema ormai con 200 anni di storia alle spalle, di costruzioni, di scartamenti, di tecnologie che si sovrappongono e naturalmente seguono anche percorsi individuali e nazionali. Bene, in tutto questo c'è un progetto che si chiama quello dello spazio unico ferroviario. Abbiamo parlato spesso dello spazio unico dei cieli, ne esiste uno anche appunto sulle ferrovie, riguarda la sicurezza e dovrebbe realizzarsi entro il 2050, una data che sembra molto lontano, ma stiamo parlando di grande infrastrutture. Insomma, tra questi il sistema di controllo satellitare ERSAT, meccanismi che la rete ferroviaria italiana sta testando e che ha superato a pieni voti il giudizio degli ingegneri e dei tecnici europei. Si tratta di un sistema per il controllo puntuale satellitare dei vagoni, dei treni in movimento. Il nuovo sistema, la cui omologazione è in corso, in futuro potrà essere utilizzato per controllare e gestire appunto il traffico. Ci spiega tutto Fabio Sensi, direttore tecnico di RFI, responsabile programmi e sistemi tecnologici di gestione del traffico ferroviario al microfono di Anna Marino. Il sistema europeo, che oggi è quello obbligatorio su tutte le linee nuove, si chiama European Railway Traffic Management System, che è previsto dalle direttive europee, dagli standard tecnici di interoperabilità. Noi in Italia l'abbiamo realizzato nel 2005, siamo stati i primi al mondo a farlo, abbiamo mandato i treni via radio utilizzando il GSMR e l'abbiamo applicato su tutte le linee alta velocità. Dopodiché si presta anche ad essere scalato sulle linee a basso traffico o addirittura per aumentare la capacità dei nodi. Il sistema satellitare ERSAT, che sì, ha superato a pieni voti il giudizio degli esperti europei per il segnalamento ferroviario, che cosa prevede? Permette anche di essere applicato sulle linee cosiddette regionali, perché essendo tutto via radio può essere, diciamo, un ottimo ritorno di investimento per eliminare infrastruttura sulle linee ed avere un costo di esercizio molto basso. Molto lavoro da fare dunque per la sicurezza ferroviaria in Europa. Intanto cambiamo tema, un nuovo sistema unico di asilo con procedure, tempi e criteri standard uguali in tutti gli stati membri, in modo da evitare che i migranti possano scegliere tra un paese UE e l'altro in cerca di condizioni migliori. Ovviamente è la proposta della Commissione europea, che intende sostituire l'attuale direttiva con un regolamento, in modo da arrivare più rapidamente a ridurre tempi e differenze nell'accettazione delle domande di asilo, nonché garantire gli stessi diritti a tutti i migranti. In Cina adesso il ministro della difesa Chang Wanquan ha riferito all'alto rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini che Pechino non accetterà alcuna proposta o azione basata sulla sentenza del tribunale dell'AIA, di cui abbiamo parlato ieri, sul Mar Cinese Meridionale. Chang, nell'incontro avuto oggi a Pechino, ha anche chiarito che la sovranità territoriale e gli interessi marittimi nel Mar Cinese Meridionale non sono colpiti dal responso arbitrale da ogni punto di vista. Insomma, Pechino ribadisce la sua posizione molto ferma in materia, lo fa in queste giornate, per coincidenza appunto del 18° summit UE-Cina. E adesso parliamo di banche. La trattativa con l'Europa fa progressi, ma naturalmente non vuol dire che l'intesa sia dietro l'angolo. Il punto nel servizio. C'è ottimismo a Bruxelles sulla questione delle banche italiane. Rassicurazioni arrivano nell'ordine dalla cancelliera tedesca Merkel. Le difficoltà delle banche italiane verranno risolte bene. Dal ministro delle finanze Schäuble ci sono margini per intervenire. Dal presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem le difficoltà del credito saranno superate ben prima del referendum in Italia. E dal vicepresidente della Commissione Dobrovskis si stanno studiando soluzioni dentro le regole senza ripercussioni sugli investitori. Insomma, c'è davvero la sensazione che si voglia arrivare ad un'intesa per rafforzare le banche italiane in sofferenza, in particolare Montepaschi, sempre nel solco delle regole europee. E anche lo stesso ministro dell'economia Padoan ammette di essere fiducioso. Dunque la trattativa con l'Europa fa progressi, ma non vuol dire che l'intesa sia dietro l'angolo, anche perché è sempre forte il fronte di chi si oppone. In Germania resta il problema di un'opinione pubblica ancora in maggioranza contraria all'intervento statale, mentre ieri il ministro delle finanze ceco Andrej Babis ha usato parole al veleno. dicendo che in Europa più che la Brexit il problema sono le banche italiane. Dichiarazione infondata e percezione del sistema bancario completamente distorta, ha replicato piccato Padoan, ribadendo che il sistema italiano è solido e assicurando che il governo garantirà tutela assoluta a risparmiatori e famiglie. Il tempo comunque stringe e l'esecutivo vuole che tutto si chiuda entro il 29 luglio, data in cui verranno resi noti gli stress test, e anche per il Fondo Monetario Internazionale i crediti deteriorati dell'Italia rallentano gli investimenti e la ripresa e occorre dunque agire rapidamente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora rapidamente la linea va a tutti convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.